e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Si fanno o non si fanno? Dai. Guarda, lo sai che abbiamo avuto un grande dibattito su questo, però facciamolo, auguri, perché sennò poi si lamentano. Mi sarei aspettato che anche voi parlasse di donne. Lo faremo nella, certo, nostra modalità. Allora, intanto vi aspettiamo, seguiteci, ma la nostra puntata, come sempre, è aperta anche all'altra metà del cielo. Assolutamente, anche perché anche l'altra metà del cielo avrà delle donne come punto di riferimento nella propria vita, che oggi avrà inondato di mimose. Magari. E magari lo avrà fatto anche in altri momenti dell'anno, non aspettando solo l'8 marzo. A me, ecco, piacciono anche, questo. A me piacciono anche i tulipani gialli. Ah, io vado con le margherite e i girasoli, invece. Quindi tutto il giallo ci piace, ecco, su questo siamo d'accordo. La torta mimosa ci piace lo stesso. Molto, anche, esatto, quella di zucca. Allora, quindi sì, anche noi ci dedicheremo alla festa della donna nella nostra modalità. Che cosa abbiamo deciso di fare? Per quello che riguarda la parte di denari, focus sul mondo del lavoro, neanche a dirlo. Quel mondo che le donne oggi frequentano con non poche difficoltà, perché sono pagate un po' meno degli uomini, perché devono fare le trapeziste per conciliare la vita professionale e quella personale, perché cercano opportunità di lavoro con una certa flessibilità, e quindi un focus su questo. Mi raccomando, intervenite all'8 00240024. Faremo anche, coerentemente con il percorso che ci siamo, sì, dati qualche settimana fa, il famoso chi cerca non trova. Aziende, siete a caccia anche di profili femminili per occupare qualche posizione e curriculum non arrivano? Raccontateci anche questo aspetto, perché noi raccogliamo queste testimonianze. Noi aspettiamo, e al numero verde o al 349-238-6666 vi invitiamo a ricordare una donna che portate nel cuore, una donna a cui siete riconoscenti o che volete segnalare e ricordare in questa giornata. Nella seconda parte di trasmissione, dopo aver approfondito l'aspetto donne e lavoro, parliamo di donne e cuore, donne che ci mettono il cuore delle donne è grande, ma il cuore delle donne va protetto, e noi impareremo a farlo. Spesso noi donne trascuriamo alcuni segnali, e quindi il messaggio di oggi è: donne, mi raccomando, cercate di proteggervi, di avere a cuore la vostra salute. Questo è molto importante, non trascuriamoci. E intanto partiamo con la, andiamo, nostra rassegna stampa. Allora, intanto la borsa oggi è positiva a Milano, più 0,41%, è negativa a Parigi, è positiva a Francoforte, Londra più 0,05%, mercati in attesa della riunione di domani della Banca Centrale Europea, quella della settimana prossima della Banca Centrale Americana, focus sui tassi, oggi recuperano i titoli bancari che ieri hanno perso terreno, e continua a correre Fiat, più 1,35%, sulla scia di tutte le dichiarazioni fornite in questi giorni dall'amministratore delegato Sergio Marchionne, l'euro a 1,0552. Sul dollaro, quindi questo il quadro di borsa. Però noi oggi vogliamo parlare di trasporti nella nostra rassegna stampa. Allora, oggi è l'8 marzo, è un giorno di sciopero, c'è un'iniziativa in Italia che è stata intitolata non a caso l'8 marzo, promosso in tutto il mondo dal Movimento Internazionale delle Donne e in Italia da Non Una di Meno, attiva contro la violenza di genere. Questa giornata ha come obiettivo di ribadire, anche attraverso l'astensione del lavoro, il rifiuto della violenza di genere in tutte le sue forme, e le donne sono invitate ad astenersi dal lavoro e dalle attività domestiche, con l'adesione di molte sigle sindacali. Lavoriamo praticamente solo io e te oggi, Nicoletta, e le altre donne che ci raggiungeranno in trasmissione. Detto questo, insomma, questa manifestazione di protesta oggi in realtà paralizza un po' il paese, perché sono fermi i mezzi pubblici a Roma, a Milano, anche se a Milano mi pare di aver capito che stamattina proprio grandissimi disagi non ce ne siano stati. Molti ritardi e disagi sono possibili anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Sciopero generale anche per il trasporto aereo, dalla mezzanotte di ieri alla stessa ora di oggi, anche se sono garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. E questo per arrivare anche a dire, Nicoletta, che per le categorie dei pendolari sembra non esserci mai una gioia, come si dice, no? Oltre ai disagi quotidiani che spesso vi abbiamo raccontato ai nostri microfoni, agli scioperi, nei mesi scorsi, abbiamo fatto tutto questo preambolo per arrivare ad una notizia che ha animato le cronache nelle scorse settimane, vi abbiamo raccontato appunto di questa storia che aveva effettivamente lasciato un po' tutti a bocca aperta, quella dei cosiddetti algoritmi che avrebbero falsato al rialzo i prezzi di molti abbonamenti per l'applicazione di una serie appunto di tasse sovraregionali e quindi avrebbero aumentato i prezzi di molti abbonamenti per tratte sovraregionali. Oggi dedichiamo un piccolo aggiornamento a questa vicenda collegandoci con Bruno Albertinelli, vicepresidente di Federconsumatori, esperto di trasporti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno e buona giornata e buon 8 marzo. Ah, grazie. Lo stavi aspettando al varco, eh? Sì. Avevo questa faccina, aveva questo ghigno che non capivo sulla faccia. Dico, adesso eccolo, vediamo lì se lo aspetta. Albertinelli, allora, donne e uomini viaggiano, fanno i pendolari e si sono un po' arrabbiati probabilmente per questa vicenda di cui abbiamo letto appunto nelle scorse settimane. Ce la riepiloga velocemente, da dove arriva questo algoritmo che avrebbe falsato appunto al rialzo il prezzo di molti abbonamenti fatti sottoscritti appunto da molti pendolari, in particolar modo con Trenitalia. Albertinelli. Ma l'algoritmo arriva da una... puoi stabilire, cioè Trenitalia dice che è stato un funzionario delle regioni, le regioni dicono che è stato un funzionario di Trenitalia. Vabbè, il solito rimbalzo di responsabilità. A costruire la formula. Di fatto noi abbiamo pagato di più quelli che viaggiano. Sì. Quelli che viaggiano pagano di più perché invece di calcolare... l'aumento dei chilometri, uso questo modo di ragionare, cioè se io passo dalla Liguria alla Lombardia al Piemonte ho chilometri che aumentano, invece che conteggiare decrescendo il costo del biglietto, questo algoritmo fa aumentare il costo del biglietto. E devo dare atto a Assoutenti, che è stata l'associazione primaria a scoprire questo errore, che già nel 2015 aveva iniziato un ragionamento con Trenitalia, che finalmente è stato affrontato in maniera più unitaria, passatemi il termine, più costruttiva. C'è stato il 22 un incontro con la conferenza delle regioni, esatto, delle province autonome, dove si è riconosciuto che ce l'aveva proprio sottolineo preannunciato Furio Truzzi, responsabile di Assoutenti, esatto, che ci aveva raccontato, esatto, di questa vicenda. Oggi non è potuto essere con noi insieme a lei, Albertinelli, quindi le abbiamo lasciato tutta l'incombenza di fare il punto delle puntate precedenti. Quindi, ripeto, la conferenza delle regioni e delle province autonome ha riconosciuto che questo algoritmo è errato e ha dato in carico, uso questo modo di ragionare, a Trenitalia di costruire un nuovo algoritmo. Noi abbiamo fatto 15 associazioni l'incontro con le conferenze delle regioni, abbiamo fatto 15 associazioni, quindi se vogliamo anche la portata della consistenza in una delle associazioni è molto importante, abbiamo fatto il 28 una riunione preconciliativa, uso questo, sì, modo di ragionare, con Trenitalia. Dove sì, Trenitalia, perché Trenitalia ha ammesso questo errore, si è resa disponibile anche eventualmente a risarcire, indennizzare, però a patto che le regioni si prendano anche la loro parte di responsabilità e forse concorrano, no, a questo risarcimento. Trenitalia ammette che c'è un costo superiore a quello che è il ragionamento molto semplice, che se io prendessi 3 biglietti regionali facendo Piemonte, Lombardia, Liguria, pagherei di meno che prendere un biglietto sovraregionale, no? Quindi c'è un errore che viene economicamente capito, ma Trenitalia non riconosce l'errore dell'algoritmo. Abbiamo usato un'espressione che quell'algoritmo non è stato aggiornato, però Trenitalia, questo sì, ammette che c'è qualche cosa da modificare. E quello che è uscito dall'incontro del 28 è che entro il 31 di questo mese, 31 marzo, Trenitalia deve presentare alla conferenza delle regioni e province autonome 4 proposte articolate per, come si può dire, modificare l'algoritmo che penalizza i pendolari. E chiaramente poi nasce il problema di quello che è il passato. Il futuro, certo, senz'altro si risolve. Il passato c'è un problema: come andare a recuperare quanto le persone hanno perso da un punto di vista annuale, biannuale, quanto hanno pagato in più e non era dovuto, esatto, a nessuno, né alle regioni, appunto, né a Trenitalia. Questo ci porta a ricordare che voi avete consigliato e state consigliando ai pendolari intanto di andare a caccia un po' di tutta la documentazione del passato. Se avessero conservato tutti i titoli di viaggio che dimostrano appunto chiaramente la titolarità di questi abbonamenti sottoscritti a prezzi più alti, rivolgersi poi ad una delle associazioni dei consumatori promotrici di questa conciliazione appunto con Trenitalia e le regioni e quindi verificare poi se ci sono i margini per poter ottenere qualche rimborso. Intanto partiamo con la documentazione che dimostri che queste spese in più le abbiamo sostenute, no, Albertinelli? Poi che cos'altro possiamo suggerire agli ascoltatori? Intanto magari se qualcuno adesso non avesse mai sentito parlare di questa vicenda, ci fa qualche esempio di qualche tratta coinvolta rispetto a questo problema? Ma guardi, io le porto un esempio che è molto, molto chiarificatrice. La tratta Genova-Milano si sviluppa per 46 km in Liguria, Genova, Arquata, Scrivia, 30 km in Piemonte, Arquata, Scrivia, Tortona e 82 km in Lombardia, Tortona-Milano. Il prezzo attuale del biglietto, calcolato con l'algoritmo sbagliato, è pari a 159,10 euro. Se si prova a calcolare quale sarebbe il prezzo del biglietto se lo stesso percorso, 158 km, si realizzasse nelle singole regioni, se tutta la tratta fosse in Piemonte, la tariffa sarebbe di 133 euro, 26,10 euro in più, cioè in meno, pardon, rispetto a quello che è il costo richiesto da Trenitalia. Se fosse tutto in Lombardia, il biglietto costerebbe 118 euro, 31,10 euro in meno. Se fosse tutto in Liguria, il ticket, il biglietto, costerebbe 116,50. Insomma, ci sono dei soldi da recuperare. In meno. Ce n'è parecchi da recuperare, se passiamo il ragionamento dell'algoritmo. Esatto. Noi lo chiamiamo sbagliato, Trenitalia lo chiama non aggiornato, però di fatto io pendolare ho pagato di più. Questo è stato ormai, come si può dire, constatato dalla conferenza delle regioni e dalla Benissimo. Stessa Trenitalia. Allora, Albertinelli, noi siamo qua in attesa che ci aggiorniate su questa vicenda per capire a quanto ammonterà, se ci sarà un eventuale indennizzo per tutti i pendolari coinvolti negli anni passati in questa vicenda dell'algoritmo non aggiornato, diciamolo pure così, chiamiamola così questa vicenda. Quando sarete pronti, appunto, con qualche notizia, chiamiateci e noi saremo pronte, naturalmente, a nostra volta, a comunicarlo a tutti i pendolari interessati. Intanto mi raccomando, recuperate tutta la documentazione dei vostri viaggi del passato, i vostri abbonamenti, i titoli di viaggio, quanto più potete, per poter dimostrare che siete vittime inconsapevoli di questa vicenda. Grazie Albertinelli, buona giornata. Abbiamo lavoro, arrivederci. E buona giornata. In tutto questo il traffico, perché è tardissimo. Sì. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Cuore e denari. E siamo tornati insieme e io vi porto in Colorado. Arriva dall'università, infatti, una ricerca che sottolinea ancora una volta, ne abbiamo parlato spesso, i benefici dei probiotici e dei prebiotici. Secondo lo studio, infatti, i prebiotici possono migliorare il nostro sonno e attenuare gli effetti dello stress. I prebiotici, infatti, servono da cibo per i batteri buoni all'interno dell'intestino ed è proprio nutrendo i batteri giusti che si mette a KO lo stress. Ma allora vogliamo sapere naturalmente di più, perché chi non si misura con uno stress quotidiano, e sono tanti gli italiani che hanno problemi di sonno, chiediamo un aiuto alla nostra esperta, la dottoressa Beatrice Salvioli, gastroenterologa di Humanitas e ricercatrice all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a tutte, a tutte le donne. Tutte. Intanto vi ricordo, stanno arrivando già i messaggi, perché dottoressa Salvioli, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di ricordare oggi una donna che portano nel cuore o a cui, verso la quale hanno un debito di riconoscenza. Stanno arrivando i messaggi all'800 24 00 24. Una giornata per ricordare che siamo diversi ma pari, ecco. Allora andiamo invece a noi, probiotici. Sono belle le differenze. Assolutamente. Esatto. Ecco, a proposito di differenze, probiotici, prebiotici, non è un errore di stampa? Ci vuole spiegare le differenze? Sì, perché nell'immaginario collettivo si parla sempre di probiotici che corrispondono ai fermenti lattici. In realtà esistono anche i prebiotici e spesso le persone non sanno cosa sono. Sono il concime, diciamo, il concime per i buoni batteri dell'intestino. I prebiotici si trovano in natura, nelle fibre. Per cui spesso queste fibre servono non solo per tutti gli effetti benefici dell'organismo, ma proprio per favorire la buona crescita dei batteri intestinali. Mi piace questa idea del concime. E non è male, mi piace stamattina. Perché il microbiota è una sorta di vivaio. Sì. È un ecosistema complesso e la sua composizione ha, lo abbiamo sentito raccontare tante volte dai suoi colleghi, delle ricadute molto importanti sulla funzionalità del nostro intestino, il famoso secondo cervello, e di riflesso sul complesso degli altri organi e apparati. Quindi meglio tenerlo bene e mantenerli in equilibrio ed essere subito pronti ad intercettare precocemente eventuali segnali di difficoltà o di disagio. Dottoressa Salvioli, ci aiuti a mantenerlo bene, nel caso a riportarlo, sì, a stare bene? Quali sono le indicazioni? Allora, c'è, cioè, da una parte il nostro patrimonio genetico che ci dà già dei batteri alla nascita, sì, e sono quelli che possono venire modificati nel tempo per vari fattori, fra cui gli antibiotici che si possono assumere, gli stress, il tipo di alimentazione. È chiaro che lei pensi che noi abbiamo quasi un chilo di batteri dentro il nostro intestino, e quando stanno male i batteri si hanno varie manifestazioni che possono andare da quelle intestinali, quindi con l'intestino che funziona troppo poco, con dei gonfiori addominali, abbiamo anche dei problemi di allergie, problemi a livello della cute, possiamo avere anche dei disturbi del tono dell'umore, quindi variazioni proprio in termini di ansia, di depressione, si dorme male. Quindi diciamo che i batteri intervengono in un sacco di funzioni che ci sono fondamentali. Ma quando avverto tutta questa corredo di sintomi, o solamente uno di questi, posso autonomamente così in qualche modo nutrire i batteri buoni? Mi prendo, continuo quindi ad assumere fibre, o magari assumo un probiotico, così senza magari saperne leggere né scrivere? Magari. La nostra esperienza clinica che ci dice, anche quella a livello proprio di studi scientifici, che se noi andiamo a mettere dei batteri che non sappiamo, sì, possiamo leggere le etichette, vedere la composizione, ma non sappiamo il nostro ecosistema dentro da che cosa è alterato, sì, possiamo creare più confusione. E allora come faccio? Generalmente, guardi, i probiotici o fermenti lattici, anche se sono delle sostanze vendute da banco, quindi senza prescrizione medica, in teoria dovrebbero essere prescritti da un medico. Perché? Perché non tutti vanno bene per tutti gli intestini. Per cui sarebbe ideale rivolgersi allo specialista per avere un'indicazione di un ceppo batterico, di più ceppi a seconda dei disturbi. Mi hanno consigliato, le leggo un messaggio, di autoprodurre il kefir di latte come fonte di probiotici continua, sì, ed economica. Vorrei sapere cosa ne pensa la vostra esperta. Ne penso molto bene. Pensi che nei paesi caucasici, da dove è nato il kefir, veniva chiamato l'elisir di lunga vita. Sì. Nel senso che il kefir è fantastico perché è un insieme, un agglomerato di batteri vivi che possono essere anche prodotti a casa, come giustamente ha detto la radioascoltatrice, e fungono proprio da probiotici ad altissima concentrazione. In più possono essere digeriti da chi è intollerante al lattosio perché contengono l'enzima lattasi che ci permette di digerirlo. È chiaro che il kefir viene venduto anche sotto forma di bevanda tipo yogurt, sia con latte vaccino che con latte di capra, ed è un ottimo rimedio se uno vuole fare proprio i probiotici, o comprarli o farlo direttamente a casa. Ma che dice? Adesso arriva la primavera, un ciclo di probiotici perché o di kefir? Perché no? Ne guadagna anche la pelle, l'umore, il sonno. Brava, mamma mia, insomma, ci tengono in pugno. Intanto io vi ricordo che a marzo a Cuore Denari è il mese della pancia, quindi scrivete a salute@radio24.it insieme agli specialisti di Humanitas, e quindi anche con la dottoressa Beatrice Salvioli. Noi siamo qui pronti a darvi una mano. Buona pancia a tutti, dottoressa Salvioli, auguri anche a lei. Mille anche a voi, grazie ancora, arrivederci. E noi andiamo a sentire le notizie del nostro GR, a tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie molto movimentate al Falco e Gabbiano. Cominciamo con un grande regista, un grande musicista che è un po' il lato irriverente dei Balcani, Emir Kusturica. E poi la donna che correva in macchina lasciandosi dietro gli uomini, Ada Pace. Frankie Valli, il mitico cantante che fu la voce degli italo-americani. L'hanno definito l'Arsenio Lupin della Riviera, Renato Rinino, l'uomo che a sua insaputa rubò i gioielli di Carlo d'Inghilterra. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco di Gabriele. Cuore e denari. Non andrai avanti in questo mondo se darai del ruffiano ai tuoi capi ufficio. Ma lui lo è. Ho dato un'occhiata al tuo file. Questa è la terza volta in 6 mesi che devo cambiarti d'ufficio. Non è colpa mia. Dove ho già sentito questa frase? Ascolta, Ruth, io ho 30 anni ormai. Ci ho messo 5 anni di scuole serali a prendere il diploma. L'ho preso a pieni voti e so di poter sfondare. Fusioni e acquisizioni. Cominci lunedì. Vabbè. Va a casa e fatti una doccia fredda. Vabbè, allora Marco Lombardo stamattina mi ha detto che non aveva mai visto questo film. Per le appassionate del settore, del ma mondo, dai. Una donna in carriera l'abbiamo visto almeno quella decina di volte. Monica D'Ascenzo, il Sole 24 Ore sorride, perché anche tu conosci molto bene la storia di Melanie Griffith. A questo punto Sigourney non potrebbe, Weaver, non e Harrison potrebbe, Ford soprattutto. Brava. Però a questo punto non potrebbe che dire sì, l'ho visto. No, perché... no, vabbè, ma sorrideva, ecco. Mi sembrava abbastanza, come dire, uno sguardo familiare rispetto al brano che abbiamo tratto. Poi Harrison è indimenticabile. Esatto, sempre. Allora, questo film narra di una segretaria trentenne, l'avete sentito, ambiziosa, vuole sfondare nel mondo dell'alta finanza. Peraltro poi nel film ad un certo punto si racconta di un merger, di un'aggregazione nel settore delle telecomunicazioni radio, per cui è proprio il nostro mondo. Non è disposta ad accettare le regole classiste del settore, ingannata dalla propria capufficio, realizza un piano ambizioso per trovare il proprio riscatto ed Harrison Ford si innamora pure di lei, quindi a completamento, ecco, del tutto. A noi manca Harrison Ford. Ma noi ce ne abbiamo tanti, ecco. Qua dentro. Guarda, ci abbiamo Giuseppe Cruciani, ce ne abbiamo... Vabbè, salutiamo, insomma, certo. I nostri colleghi maschi, l'altra metà del cielo, come li abbiamo chiamati questa mattina. Parliamo della festa della donna. Abbiamo deciso di celebrarla però alla nostra maniera, parlando di lavoro e difficoltà professionali, in un contesto in cui si dicono un po' sempre le solite cose, naturalmente vere, sacrosante, tutte degne del massimo rispetto, però il gap nelle retribuzioni e remunerazioni, difficoltà ad ottenere un lavoro che garantisca una certa flessibilità, numeri da acrobata per conciliare vita privata e professionale, quando si parla di donne e lavoro un po' ci si concentra su questo. E allora oggi noi lo faremo naturalmente, ma proveremo anche a così a avere un po' di coerenza rispetto a quanto abbiamo fatto nelle ultime puntate dedicate al lavoro, declinando naturalmente quel modo di affrontare l'argomento al femminile. Vi ricorderete la questione del chi cerca non trova e ricorderete che abbiamo provato a capire con alcune puntate di Cuore e Denari perché... In termini generali la disoccupazione è ancora così alta e al contempo molte aziende hanno tante posizioni aperte e disponibili, ma non ci sono curriculum pronti per queste opportunità. Questo è vero anche per il mondo femminile, stamattina proveremo a capirlo, intanto con Rosario Razizza, amministratore delegato di Open Job Metis e presidente di Assosom, che è l'organizzazione che raduna tutte le agenzie di somministrazione del lavoro. Razizza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Si trova bene in questo gineceo stamattina? È contento? Sì, mi sento un privilegiato. Ecco, bravo. Ha visto, bravissimo. Ecco, un punto. L'ho già presentata la collega Monica D'Ascenzo, amica di Radio 24, ci conosciamo ormai da quasi 20 anni con Monica, 20 anni no, ma 15-16 tutti, abbiamo condiviso tante esperienze professionali, ideatrice, animatrice, coordinatrice di Ally Hoop, è online da 1 anno e mezzo, questo, come lo possiamo definire Monica, blog multifirma del Sole 24 Ore che si dedica proprio all'altra metà del cielo, ma in realtà a 360 gradi, è un mix un po' molto curioso. Era nato come un blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato alle donne, poi il 50% dei lettori è uomo e quindi ci ha dato degli stimoli diversi, per cui adesso interpretiamo la diversity a 360 certo. gradi parlando di diversità in generale. E infatti l'abbiamo coinvolta stamattina perché proprio per celebrare il primo anniversario di vita di questo, il primo compleanno appunto di questo blog multifirma, è uscito un ebook dal titolo Cambio Vita, 10 storie di donne alla svolta svolta della loro carriera. Per cui racconteremo queste testimonianze, in realtà potrebbero essere molte di più, forse avete dovuto fare una selezione anche un po' dolorosa di tutte le esperienze che vi arrivano, e però insomma avete raccolto le più significative, adesso ne parleremo. Intanto 800 24 00 24, proviamo a coinvolgere anche le donne e gli uomini all'ascolto su questo argomento, senza naturalmente come al solito circondare della solita retorica questa ricorrenza. Raccontatemi invece un po' che cosa ne pensate del lavoro femminile e quali considerazioni si possono esprimere in questo momento di grande difficoltà per molte persone, soprattutto per le donne che, lo sappiamo, hanno questo frangente difficile soprattutto quando escono dal mercato del lavoro per la maternità, e poi il rientro è sempre molto faticoso. Razizza, le do subito la parola per raccontarci un po' la vostra fotografia rispetto al tema del lavoro al femminile in questo momento. Cosa ne pensa anche del tema come l'abbiamo posto noi? Aziende che cercano ma non trovano curriculum, e cosa si dice a proposito delle donne? Concordo sull'ultima affermazione, che in alcuni casi le aziende cercano figure particolarmente specializzate e si fa fatica a trovarle. Proprio sulla mia scrivania ieri sera sono arrivate delle richieste in occasione della preparazione della trasmissione di oggi, che poi magari, se vorrete, vi racconterò. Per quanto riguarda il tema delle donne e lavoro, se è vero che in Italia è ancora il fanalino di coda nell'occupazione e i 2/3 degli attivi sono donne, però volevo porre alla vostra attenzione il fatto che il numero di imprese fondate da donne è cresciuto più della media nazionale, più 1,1%. È evidente che per il mondo femminile bisognerebbe immaginarsi per le donne dei percorsi virtuosi per aiutare le donne a entrare nel mercato del lavoro, perché conciliare famiglia, lavoro e impegni di tutti i giorni, io credo che sia di fatto siano tre lavori che uno fa tutti i giorni anziché fare esclusivamente solo uno. Insomma. Che tipo di imprese fondano le donne, Razizza? Cosa ci può raccontare di nuovo a questo proposito? Ma l'altro giorno ho incontrato per esempio un gruppo di donne che hanno fondato proprio una struttura di blog e si sono messe in questo diciamo settore del blog relation, nella moda, nel food, nello sport, ed è un'attività aiutata anche dalla tecnologia che possono svolgere tranquillamente anche da casa o attraverso quello che viene oggi definito lo smart working o il telelavoro, e questo consente magari di gestire un pochino meglio gli orari, di gestirsi un pochino meglio in termini di diciamo bilancio della propria giornata e del proprio orario. In realtà le donne sono diciamo bravissime, secondo il nostro osservatorio l'85% della mia azienda per esempio è donna, e tutto il settore devo dire che è fondato prevalentemente da donne, perché precisione, dedizione e impegno sono sicuramente caratteristiche che ormai noi tutti abbiamo imparato, certo, ad apprezzare. Diciamo che ancora che rimane allora un po' un luogo comune il fatto che le donne amano ancora candidarsi per profili amministrativo-organizzativi, e c'è invece qualche tendenza nuova che si affaccia, che appunto, come lei faceva poco fa, Razizza, vale la pena segnalare. Poi le leggo però anche qualche messaggio di qualche ascoltatore con una con una considerazione invece molto diversa, se non addirittura radicalmente opposta rispetto al nostro tema di stamattina. Adesso ve la leggo. Quindi, Razizza. Ma no, io credo che non si possa più parlare di differenza tra uomo e donna, chi è bravo, chi si specializza, chi diventa professionale, sicuramente può trovare nel mondo del lavoro uno sbocco maggiore di chi invece non ha voglia o non ritiene che queste caratteristiche possano essere importanti. Noi siamo quotati in borsa, per esempio abbiamo nel nostro consiglio di amministrazione, la metà del nostro consiglio di amministrazione è fatto da donne. Perché siete stati obbligati dalla legge Golfo Mosca? Fortunatamente no, perché avevamo già, ancora prima di essere quotati, l'abitudine di confrontarci a tutto tondo, a 360 gradi, e avevamo già preso questa direzione e eravamo già in questa condizione. Quindi voluto è stato dare, facile. Certo, un assist a Monica D'Ascenzo, che questo tema lo conosce molto bene, ha scritto anche un libro che si intitola Fatti più in là, e parlavi proprio appunto dell'applicazione di questa legge tra le società appunto italiane. Adesso ne parliamo, ma ti voglio dare un altro tema di uno spunto per il blog. Monica, senti cosa ci scrive Roberto. Mia moglie ha una line manager tutta femminile, compreso il capo del personale, non riesce ad ottenere un'elasticità di orario tale da gestire meglio le bambine. Di che cosa state parlando stamattina? Sono le donne, le prime nemiche delle donne. Ci piace questo taglio, A me non tanto, perché secondo me lo usano gli uomini per metterci uno contro l'altro, nel senso che... Io invece penso che secondo me da qualche parte un po' è vero. No, prima noi abbiamo iniziato con una citazione del film di cui parlavi. Secondo me quelle donne che fanno carriera in quel modo non esistono più, nel senso che abbiamo vissuto un periodo in cui le donne per fare carriera assumevano i parametri maschili. Le uome. Esatto. Si mettevano lo smoking, la cravatta. Fortunatamente la nostra generazione, secondo me, ha cambiato i parametri, nel senso che non ci accontentiamo più di fare carriera, ma vogliamo una vita più compiuta, quindi va bene la carriera, però c'è chi ha figli, chi non ha figli e magari ha un hobby, chi ha una passione e così via, e vogliamo una realizzazione a 360 gradi. Quindi quel tipo di donne che secondo me dettano regole al maschile stanno via via scomparendo, e teniamo conto che ci sono alle porte sempre più millennials che stanno entrando in posizioni, diciamo, dirigenziali e via via crescere, che hanno sia uomini che donne dei parametri diversissimi dai nostri, e loro sì che vogliono la flessibilità e ci tengono molto alla loro vita privata. Quindi ci sarà una rivoluzione nei prossimi 10 anni che sarà molto forte e non solo guidata da noi. Che cosa ne pensa delle giovani millennials, Rosario Rasizza, quindi queste trentenni giovani donne che si stanno affacciando al mercato del lavoro? Con quali caratteristiche, credenziali, biglietti da visita si stanno presentando? Ma sicuramente si stanno presentando con un altissimo grado di istruzione, si stanno presentando mettendo al primo posto l'ambizione e la voglia di dimostrare di essere al pari di chiunque possa ricoprire quel ruolo. Noi in azienda non facciamo distinzione, spingiamo tutti a crescere, a migliorarsi, e credo che quindi non si debba aver paura di chi vuole raggiungerlo, di chi vuole ricoprire una mansione o una carica, che sia donna o che sia uomo. Insomma. E intanto Andrea da Modena scrive, sempre a proposito del chi cerca non trova, un messaggio declinato al femminile questa mattina, ma è dello stesso tenore di quelli che ci sono arrivati nelle ultime puntate fatte sull'argomento. Le aziende sono pretenziose, ricercano massima preparazione, Rasizza pure questa è per lei, ci dica se è vero, vogliono pagare poco, non offrono possibilità di formazione, tantomeno di carriera. Soluzione: emigrare, sia per le donne che per gli uomini. Sì, questa è ovviamente una considerazione estremamente generica, probabilmente frutto dell'elaborazione mentale di una persona che ha avuto un'esperienza di questo tipo. È ovvio che non tutte sono così. Ci dice le aziende e le donne che cosa cercano? Ci faccia un po' una carrellata di qualche posizione interessante su cui, verso la quale candidarsi in questo momento per tutte quelle donne che magari, che ne so, hanno terminato il periodo della maternità, stanno provando a riproporsi nel mercato del lavoro con difficoltà. Poi faremo magari anche un piccolo focus sulla flessibilità, smart working, part time e quant'altro. Rasizza. Sì, innanzitutto per rispondere a chi vi ha scritto prima, il pagare poco non è tecnicamente possibile, nel senso che in Italia esiste il contratto collettivo nazionale e ogni azienda seria deve rispettare e applicare questo tipo di contratto. Quindi bisogna individuare, bisogna inviare il proprio curriculum e bisogna accertarsi prima di inviare la propria candidatura che l'azienda dove si vuole andare a lavorare sia seria. Cioè il pagare poco non lo possiamo stabilire io e lei, ma lo stabilisce il contratto collettivo nazionale, e di questo tutti ne devono essere coscienti, e invito chiunque a denunciare tutte le aziende che non si comportano in questa maniera. Per quanto riguarda i profili, sicuramente è vero quando il radioascoltatore scrive che bisogna essere professionali, cioè l'azienda oggi non ha tempo per investire immediatamente sulle figure, ma questo da un certo punto di vista è interessante, perché molte aziende hanno per motivi di crisi fatto una riduzione di organico di personale, quindi anche per esempio le persone di 45 anni, 50 anni oggi per la piccola e media impresa sono ritornate molto molto interessanti, perché portano con sé il bagaglio esperienziale che hanno fatto magari in multinazionali. Le figure ricercate, ma io ne ho qui alcune, ne ho una un po' così particolare che volevo raccontarvi, che è quella di una figura che viene definita siliconatrice, è una richiesta, in particolare una figura femminile, per la precisione e attenzione necessaria a svolgere un ruolo che prevede la sigillatura e la rifinitura, per esempio, dell'arredamento navale di yacht di lusso. Che si immaginerebbe essere un lavoro maschile, e invece no. Cercano solo donne. Abbiamo necessità, per esempio, a Prato di rammendine. Che cos'è la rammendina? Riparano le pezze di altissima qualità, quelle che vengono, diciamo, che escono dai telai, che hanno qualche piccolo difetto. No, ecco, sono belle queste esperienze, perché siccome non facciamo altro raccontare di professionalità nel campo digitale, peraltro professioni che è anche difficilissimo da poter raccontare ai nostri ascoltatori, ne vedo un po'. Adesso c'è una società che mi ha mandato un comunicato stampa che cerca data protection officer, digital information officer, esperta in metodologie agile di internet of thing expert. Monica, figure che non si trovano, vabbè, tanto capire che lavoro fanno questi qua. La rammendina è più chiara. Sì, ma anche la siliconatrice, guarda. Invece Monica, dalla tua esperienza, che cosa puoi raccontarci, insomma? Allora, secondo me bisogna partire dalla scuola. E in Italia le aziende faticano a trovare 60.000 figure professionali, e non sono poche. La maggior parte di queste hanno un'istruzione tecnica. Noi invece gli istituti tecnici, a mio avviso, li abbiamo un po' snobbati fino adesso. Teniamo conto che i dati ci dicono che dopo un anno dal diploma, un diplomato di un istituto tecnico su due già lavora stabilmente, e questo è un dato molto positivo. In Italia, appunto, li abbiamo un po' snobbati, nonostante poi la riforma che li ha riguardati, mentre all'estero puntano molto su questo settore. Faccio l'esempio, per esempio, della Gran Bretagna. Brexit probabilmente farà entrare meno professionalità in Gran Bretagna. Il governo ha questa consapevolezza, per cui Theresa May ha deciso di investire 170 milioni negli istituti tecnici, perché non arriveranno più tecnici da fuori, quindi se li formano subito. Ma se li formano, per cui prima ancora di arrivare alla Brexit, 170 milioni di sterline sul piatto per potenziare. Inoltre, per esempio, Theresa May ha deciso di aprire una scuola di matematica in ogni città. Perché la matematica? Sappiamo perfettamente quanto le STEM, cioè le scienze, la tecnologia e così via, siano importanti. Aprire una scuola di matematica vuol dire andare in quella direzione, andare nella direzione del coding e di tutte quelle professionalità di cui parlavi poco fa, che noi come generazione non sappiamo neanche. E non siamo neanche delle novantenni, peraltro, no? Eppure non le comprendiamo. Però se si investe in quella direzione, allora si riesce a essere competitivi anche come paese, perché il problema non sono le donne o gli uomini. Il problema è la competitività di questo paese, che è ancora 7 punti percentuali di PIL sotto i livelli del 2008. Quindi non si parla del fatto di fare un favore alle donne, quindi di agevolarle con una tassazione agevolata per creare posti di lavoro. Alesina e Chino ieri del Corriere, insomma, rifatta anche più volte, però ci sono altre strade. Ci sono altre strade e dobbiamo puntare su tutti i giovani, a mio avviso. Allora, l'ultima testimonianza la assegno a Francesca Guinando, una collega giornalista con la Onlus Donne a Lavoro. Sta collaborando con Work Wild Women, una startup di Bologna che forma le donne sulle professioni del futuro, ma soprattutto con Donne a Lavoro organizza anche un bel festival a Roma, chiamando a raccolta tutte le donne a caccia di idee ed opportunità. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo purtroppo un minutino e mezzo di tempo, però insomma il tuo messaggio finale ci piacerebbe molto ascoltarlo su tutto questo che abbiamo detto stamattina. Ovviamente ci interessa soprattutto la concretezza dei nostri messaggi sul tema del lavoro. Dacci un po' qualche spunto pratico per le nostre ascoltatrici. Assolutamente. Dunque, se il mismatch scuola-lavoro di cui state parlando adesso con Monica causerà una, come dire, un buco di 750.000 professionisti in tutta Europa nei prossimi anni, è ovvio che dobbiamo fare qualcosa per formarci. È giustissimo, come diceva Monica poco fa, andare ad agire sui giovanissimi e sulle giovanissime con le materie STEM. Vorrei anche ricordare in merito a questo che questa estate per la prima volta in Italia le scuole rimarranno aperte proprio per insegnare le materie STEM a ragazze e ragazzi, quindi qualcosa si sta muovendo anche nel pubblico. Però vorrei dare un appuntamento a tutte le donne che non hanno 18 anni, ma magari hanno qualche anno di più e che vogliono reinventarsi e cambiarsi, perché l'opportunità digitale è per tutte quante le donne. Quindi vi do appuntamento al 10 marzo, questo venerdì, a Roma, in un posto meraviglioso, a Piazza di Spagna, all'Accademia L'Oréal, perché Worldwide Women, la startup bolognese di Linda Serra, organizza un workshop spettacolare con Francesca Sanzo che si chiama Mutazioni, cioè partire dai propri fallimenti personali e professionali per agire un cambiamento sia nella vita privata che nella vita professionale, perché io credo che le donne e il lavoro, la questione delle donne e il lavoro sia questa: bisogna cedere terreno in casa per conquistare terreno pubblico, quindi cediamo grazie. Spazio ai mariti, ai padri e conquistiamolo nel lavoro. Grazie a Francesca Guinanda, a Rosario Rasizza, a Monica D'Ascenzo per essere stati con noi. Devo correre rapidamente ai mercati finanziari, ma proseguiamo con le donne, con il cuore delle donne, con Nicoletta tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui nelle sere tempestose. E siamo tornati insieme con la bella e straordinaria Fiorella Mannoia. Continuiamo a parlare di donne che hanno seguito il loro cuore, Deborah, e proprio di cuore parliamo con un'attenzione particolare al cuore delle donne, ma naturalmente vogliamo anche aprire le porte, e lo facciamo con grande piacere, all'altra metà del cielo, o comunque a tutti coloro che ci fanno battere il cuore e che portiamo dentro al nostro cuore. Ilario, buongiorno, ci chiama da Modena all'800 24 00 24, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Ilario. Buongiorno, brave, brave, bravissime. Ecco. Faccio in fretta così si risparmia tempo. Grazie Ilario. Vuole ricordare una donna in particolare? Una donna che ha segnato la sua vita? Una donna che vuole ricordare? Un collaboratore, senz'altro mia moglie, per la quale mi è venuta in mente la frase che dietro ogni donna eccezionale c'è un uomo paziente. Bravo Ilario, questa mi piace, vedi? Io direi a fianco, perché bravo. Questo applauso è partito da Carmelo, e quindi grazie. Solidarietà maschile. Grazie Ilario, buona giornata. Di nuovo, arrivederci. E noi parliamo di donne, ma soprattutto parliamo di un organo speciale, è il motore della nostra vita, ma anche il luogo più intimo, più misterioso, in cui ci piace pensare che siano racchiusi i nostri sentimenti, le nostre emozioni, quindi teniamolo da conto, impariamo ad ascoltarlo, ad assecondarlo, un po' come faremo con una persona che ci sta particolarmente a cuore. Eccolo qua, lo state ascoltando? Questa è la sua voce, la voce del nostro cuore. Adesso invece vi faccio sentire la voce del nostro ospite di oggi. È un grande esperto, un grande amico della nostra trasmissione, a cui abbiamo affidato un compito molto delicato: parlare del cuore delle donne per convincere le donne a prendersene cura. Buongiorno al professor Claudio Borghi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti voi e buona giornata della donna. Bravo. Mi fa veramente molto piacere essere con voi oggi, è un grande onore che mi avete fatto. Lo so, siamo delle donne speciali, professor Borghi, che ricordo. L'ho sempre riconosciuto, in tempi non sospetti. Allora, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della fondazione della Società Italiana dell'Ipertensione. Allora, chiamateci intanto all'800 24 00 24 per raccontarci il ritmo del vostro cuore, che cosa vi racconta il vostro cuore, ma anche chi e che cosa portate dentro, che le persone che ricordate con affetto. Naturalmente aspettiamo i vostri interventi. Professore, noi oggi vogliamo invitare le donne, ma naturalmente estendiamo l'invito anche agli uomini, a occuparsi del loro cuore, proprio come faremmo con un amico o con il nostro amore. Certo. Le donne hanno un cuore grande, ma anatomicamente un po' più piccolo del vostro, degli uomini, direi diverso, Ma le differenze non finiscono qui, perché non è solo un problema di dimensioni. Le donne devono sapere che anche i fattori di rischio, li conosciamo ormai bene, hanno un impatto differente sulla salute del cuore, sul nostro cuore, che presentano anche che a volte può presentare anche dei sintomi, può avere un linguaggio tutto suo in caso di malattia, che si discosta da quello che è solitamente viene descritto e conosciuto e che si manifesta invece negli uomini. Professore. Sì, beh, questo dipende dal fatto che il cuore e l'apparato cardiovascolare si sviluppano in maniera diversa sostanzialmente nei due sessi, per cui alla fine hanno caratteristiche diverse, anche perché dal punto di vista circolatorio, dal punto di vista somatico delle dimensioni ci sono delle differenze, e il cuore non è sostanzialmente più piccolo, è adeguato al fatto che in generale ha a che fare con organismi che sono un pochino più compatti dal punto di vista della struttura. In più, per le donne c'è il grande vantaggio, per buona parte della loro vita, di un supporto da parte del ciclo ormonale che in qualche modo aiuta il lavoro del cuore, per cui il cuore ha meno necessità di aumentare in maniera significativa le proprie dimensioni, perché si trova a lavorare, come dicevo, per buona parte della vita, avendo un supporto sostanziale che gli permette di funzionare meglio. E questo è poi il meccanismo che genera quella differenza alla quale lei faceva riferimento molto opportunamente in termini di fattori di rischio, proprio lo spartiacque del bilancio ormonale, della comparsa della menopausa, è una condizione che fa sì che lo sviluppo nel tempo dei fattori di rischio nelle donne segua una dinamica che è completamente diversa da quella degli uomini e della quale è assolutamente necessario tenere conto. E in questo si inquadra anche la differenza nella percezione dei sintomi, perché lei sa molto bene come il bilancio ormonale influenzi a livello centrale la percezione delle sensazioni. Le donne sono nettamente diversi dagli uomini in termini di sensibilità. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi. Professor Borghi, intanto che lei mi descriveva un po' le differenze, ho visualizzato un'immagine, due immagini, una quercia e una betulla, due piante ma molto diverse tra loro, un po' come il cuore delle donne e quello degli uomini. Sì, potrebbe essere, è una buona idea, forse perché la quercia è un pochino più solida, effettivamente il cuore dell'uomo è strutturalmente non solo un po' più grande, ma anche dimensioni delle pareti che sono un pochino più spesse, tant'è vero che quando si calcola il volume del cuore va, come diciamo noi, indicizzato per il sesso, perché è una cosa importante. La betulla è bellissimo perché ovviamente la betulla è fortemente radicata e quindi trae la sua forza esattamente dalla forza vitale del terreno nel quale è inserita, però ha anche la possibilità di piegarsi molto spesso sotto l'azione del vento, e questa secondo me è una delle caratteristiche delle donne che tendono nella nostra società in generale a essere più flessibili, e in questa maggiore flessibilità sta anche il segreto di una diversa intelligenza. Abbiamo invitato i nostri ascoltatori a considerare il loro cuore come un amico prezioso, come una persona di cui prendersi cura. Allora proviamo a fare un identikit. Ci aiuti lei? Se fosse una persona sarebbe un gran lavoratore, quasi instancabile, professor Borghi. Questo dobbiamo riconoscerglielo. Indubbiamente, perché il cuore fortunatamente non si ferma mai, mentre ci sono altri organi che hanno fasi della loro attività nella giornata che noi definiamo come circadiane, ossia sono in grado di modulare la propria attività a seconda delle necessità, il cuore deve comunque mantenere sempre il meccanismo funzionante anche nel momento in cui siamo immobili, ad esempio durante il sonno. Quindi certamente è un gran lavoratore, perché lavora 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, e io non conosco nessuna categoria in cui un singolo individuo sia in grado di fare una mole di lavoro di queste dimensioni. Anche se a volte ci sembra perda un po' il ritmo, può capitare. Può capitare che perda ritmo, può capitare, ma in alcuni casi può capitare perché di fondo c'è qualche problema che ne altera il funzionamento, in altri casi però è semplicemente l'emotività che fa sì che anche lui abbia le sue reazioni. Se noi l'abbiamo trasformato, come lei ha fatto molto opportunamente, in un soggetto antropomorfo al quale vogliamo dare una personalità, ora le personalità necessariamente hanno comportamenti diversi a seconda della situazione, forse alcune piccole alterazioni del ritmo, l'extrasistole ad esempio, possiamo considerarli come scarti della personalità rispetto all'andamento medio di tutti i giorni, quindi sicuramente un altro aspetto che ci permette di considerarlo come alla stregua di un essere umano e non soltanto come la forza vitale di un essere umano. Quindi io aggiungerei come caratteristica nel nostro profilo appassionato, ma professor Borghi, so che lei troverà degli aggettivi più calzanti. Sì, appassionato sicuramente, perché il nostro cuore cerca di tamponare per tutte le difficoltà e anche nelle condizioni di malattia, molto spesso adatta se stesso in modo tale che il prodotto finale del suo funzionamento sia mantenuto stabile e sia quello di generare benessere nell'organismo nel quale il cuore vive. Quindi se ci pensa, questa è una cosa straordinaria, il fatto che comunque il cuore sia sempre finalizzato a far sì che la persona con la quale convive comunque abbia una vita semplice. Appassionato io lo aggiungerei all'aggettivo generoso, perché questo è tipicamente l'aspetto della generosità. Il cuore non solo è in grado di fare questo ed è in grado di mantenere la nostra attività a scapito di se stesso, ma in generale non chiede moltissimo in cambio, nel senso che se noi lo riforniamo in maniera adeguata lui se ne serve, se noi non lo facciamo è in grado di trovare le sue risorse senza chiederci nulla in cambio. Credo che anche questo sia un aspetto della visione antropomorfa che oggi non si declina molto bene con la nostra società, dove l'individualismo rispetto all'aspetto generale sembra essere prevalente. Direi se fosse un uomo sarebbe da sposare. Comunque continuiamo, è amante dello sport e anche un po' fissato col peso forma, diciamo che la pancia lo mette un po' in crisi. Assolutamente amante dello sport, perché lo sport gli permette di funzionare meglio ed è il cuore che genera la nostra capacità di fare sport in maniera adeguata e di reagire favorevolmente. Certamente per quello che riguarda la pancia lo mette in crisi per due motivi. Primo, perché la pancia in maniera piuttosto subdola produce delle sostanze che sono in grado di fare funzionare peggio il nostro cuore e quindi viene subito. Secondo, perché ovviamente la pancia a sua volta genera un sovvertimento dal punto di vista della circolazione al quale il cuore deve comunque fare fronte, quindi praticamente viene sovraccaricato in ragione del fatto che questo tessuto che noi ci portiamo dietro crea problemi anche al cuore, perché deve nutrire qualche cosa che non ritiene strettamente necessario al nostro buon funzionamento. Una grande dimostrazione di generosità in questo caso però rivolta a un soggetto che non è in grado di apprezzarla. Professor Borghi, noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. È anche un buon gustaio, ama mangiare bene, ci sono degli alimenti che devono essere inseriti nella dieta, degli alimenti che possiamo definire salvacuore o amici della salute del nostro apparato cardiovascolare. Ne parleremo tra poco con un'esperta, ma sentiremo anche le vostre testimonianze che stanno arrivando all'800 24 00 24 tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Cuore e denari. Mio cuore, tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono. Parliamo del nostro cuore e cerchiamo di considerarlo un po' come un amico, come un amore. Con gli anni impariamo a conoscere il carattere, le fragilità, riusciamo a capirlo anche senza bisogno delle parole. Bene, anche per il nostro cuore dobbiamo imparare a interpretare il suo linguaggio, e il cuore di noi donne ha un linguaggio tutto suo. Il cuore delle donne, ce lo sta raccontando il professor Borghi, che è in linea con noi, è diverso da quello dell'uomo e si ammala anche in modo diverso, a volte con troppa discrezione, con sintomi subdoli, sfumati. Allora chiedo subito al professor Borghi di aiutarci a conoscerli per non sottovalutarli, che in noi donne è un rischio abbastanza frequente. Professor Borghi, parlo subito di un problema che fa paura, dell'infarto. Nelle donne si può manifestare in maniera molto differente rispetto a quanto accade negli uomini. Spesso infatti i sintomi non si manifestano chiaramente e tendiamo a trascurarlo. Ecco, e questo può costarci davvero caro. Quali sono allora i segnali che le donne devono conoscere per sapere individuare? Ma fondamentalmente ciò che lei dice è la verità dei fatti, cioè il cuore ha caratteristiche tali per cui nelle donne le malattie cardiovascolari, anche gravi, sono più spesso asintomatiche, non hanno quell'aspetto roboante che spesso hanno nell'uomo, e anche in questo caso dipende dalle caratteristiche di sviluppo del cuore nella sua genesi, che è sostanzialmente diversa, come abbiamo visto in precedenza. In generale, quello a cui faceva riferimento prima, la comparsa di un'aritmia, ad esempio, nelle donne ha spesso un significato molto più profondo e deve essere valutata con grande attenzione. La comparsa di qualche segno fastidioso, anche se non molto evidente, quando ad esempio si impegnano in alcune professioni magari di tipo domestico o quando, avendo spesso sulle spalle la gestione della famiglia, si muovono nei supermercati dovendosi poi spostare con pesi ragguardevoli. Ecco, qualche piccolo segno che possa emergere in questa situazione, che non sia il classico segno di dolore toracico, quello clamoroso, cinematografico, ma che sia anche soltanto una piccola sensazione di fastidio o la sensazione di avere una certa difficoltà a continuare a camminare e doversi necessariamente fermare. Nelle donne molto spesso corrisponde a un quadro sottostante di compromissione del cuore certamente molto più evidente. E poi, se si hanno fattori di rischio cardiovascolari importanti che siano stati diagnosticati, non aspettare naturalmente che compaiano i sintomi, perché sono proprio le donne che hanno fattori di rischio in assenza di sintomi quelli che spesso sviluppano cardiopatie di tipo asintomatico. Quindi c'è anche la necessità di essere proattivi nell'interpretare questi segni indiretti. E questo, quindi speriamo che con questa puntata aiuti, ci permetta di arrivare al cuore del problema e soprattutto al cuore delle donne. E in linea con noi abbiamo la professoressa Evelina Flachi, specialista in scienze dell'alimentazione, presidente della Fondazione Italiana per l'Educazione Alimentare e fa parte del direttivo della Società Prevenzione Cardiovascolare. Buongiorno professoressa e benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno a voi. Allora, professoressa, l'avevo anticipata, avremmo parlato anche, abbiamo provato a descrivere il nostro cuore come proprio come se fosse una persona, e io ho aggiunto nelle caratteristiche, nel suo profilo, ama la buona cucina, una cucina che gli fa bene. Professoressa Flachi, quali sono le sostanze, gli alimenti, i cibi che hanno una funzione protettiva della salute del nostro apparato cardiovascolare? Ecco, oggi sappiamo che l'alimentazione è diciamo studiata per prevenire o addirittura assicurare durante terapia un buono stato di salute. Quindi dobbiamo scegliere in primis il mantenimento del peso forma, e quindi dobbiamo evitare gli eccessi calorici e soprattutto i cibi ricchi di grassi saturi o i condimenti in eccesso, perché questo può nel tempo provocare delle problematiche a livello di arterie e di circolazione. Preferiamo ovviamente il nostro olio d'oliva extravergine, ricco appunto di acidi grassi monoinsaturi protettivi per le nostre arterie. La frutta e la verdura, sappiamo che le 5 porzioni al giorno sono consigliate non solo perché forniscono un buon apporto di fibre, ma perché ricchissime di antiossidanti protettive anche delle pareti cardiovascolari, soprattutto la frutta e la verdura di colore viola, perché gli antociani che rappresentano questo colore sono stati studiati come protettivi delle pareti cardiovascolari e dei nostri vasi. Quindi ricordate questo colore, viola. Viola, poi ovviamente i carotenoidi che sono presenti nelle verdure, negli ortaggi verdi, ma soprattutto in quelli giallo-arancioni sotto forma di beta-carotene, precursore della vitamina A, che interviene come antiossidante nella prevenzione dell'eccessiva presenza di radicali liberi, che sono quelli che poi attaccano le membrane cellulari. E quindi nella varietà delle scelte scegliamo un piatto colorato dove viola, giallo e verde, professoressa esatto. Flachi, questi sono i colori della tavola che piacciono bianco, al nostro cuore. Anche il bianco perché contiene la quercitina, che è stata dimostrata protettiva e preventiva nella fluidità del sangue. Quindi mettiamo anche finocchi, dove li amiamo, aglio e cipolla, ecco, perché favoriscono nella varietà anche la presenza di questi antiossidanti. E ovviamente non facciamoci mancare il pesce, che soprattutto il nostro pesce azzurro, per la ricchezza di omega 3, che sono stati dimostrati protettivi non solo delle cellule nervose, ma anche della, dell'apparato cardiovascolare. Quindi direi ama la misura, ama la varietà e delle, dei piatti molto colorati. Brava. Professor Borghi, che è ancora in linea con noi, certo. Chiedo a lei e chiedo alla dottoressa, alla professoressa Flachi, in 30 secondi un messaggio rivolto alle donne per invitarle a prendersi cura di sé e di farlo anche in modo, direi, con grande serenità e piacere e soddisfazione, come a dire il cuor contento, il ciel aiuta. Professor Borghi, e poi chiudiamo con la professoressa Flachi, 30 secondi. Certamente non credere a ciò che si dice, che il cuore delle donne sia protetto per definizione rispetto a quello degli uomini, quindi tutta l'attenzione vada rivolta agli uomini, le donne pensino un pochino a se stesse e immagino che molto probabilmente qualcosa nel tempo che ha diretto molta energia verso gli uomini è stato probabilmente a loro sottratto ed è giusto che oggi se lo riprendano indietro. Grazie al professor Borghi. Professoressa Flachi? Visto che io parlo al femminile, direi a tutte le donne, soprattutto oggi, di vivere col cuore e per il nostro cuore anche a tavola. Grazie alla professoressa Flachi, si avvicina quasi l'ora, ricordiate i colori del, che ci ha suggerito la professoressa Flachi, viola, giallo, verde e bianco per una tavola colorata, aggiungiamo anche un po' di mimosa. Professor Borghi, professoressa Flachi, bene. Buona giornata. Buona giornata a tutti, buona festa della donna. Vabbè, alla fine anche noi l'abbiamo detto e non potevamo mancare. E auguri anche a Carmelo. E va là. E vabbè, a domani, grazie.